Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Flagship Grafene, insieme allo Human Brain Project, è la più importante iniziativa di ricerca comune intrapresa dall'Europa. Un investimento da 1 miliardo di euro con l'obiettivo di portare questo stupefacente materiale, il grafene, appunto scoperto meno di 10 anni fa, dal banco del laboratorio al banco del supermercato, se così vogliamo dire, e magari precedere in questa operazione l'Asia. Di questo tema si è parlato oggi nel corso dell'Innovation Day organizzato da Edison, cui ha partecipato come relatore anche il nostro ospite di stasera, Vittorio Pellegrini, direttore dei Grafene Labs dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, e rappresentante italiano all'interno del board che gestisce il progetto Grafene, oltre che responsabile a livello europeo per il filone di ricerche dedicato all'energia. Buonasera Pellegrini. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, ne abbiamo parlato altre volte qui a Smart City, ma ci ricordi brevemente che cos'è il grafene e perché è considerato così importante? Allora, il grafene è un materiale estremamente semplice, è un foglio bidimensionale, spesso quanto un atomo, composto da atomi di carbonio disposti a geometria esagonale. È un velo sottilissimo di materia, è l'elemento base che forma la grafite. La grafite è un libro formato da milioni di foglie di grafene, sì. E il grafene è un singolo foglio. È spesso quanto un atomo, ha delle proprietà stupefacenti, conduce elettricità meglio del rame, conduce calore, è trasparente, è flessibile, è robusto meccanicamente e soprattutto, essendo un velo di materia, ha una superficie per grammo elevatissima, di 2600 metri quadrati per grammo, che è la più elevata tra i materiali che si conoscono. E sappiamo che avere superfici ampie è importantissimo, per esempio in tutti i processi di catalisi, una serie di processi chimici e così energetici via. Di varia natura, tutti sfruttano materiale ad elevatissime superfici per peso, e quindi il grafene entra in una varietà di processi di conversione, stoccaggio di energia, e quindi è molto importante in questo settore. Allora, il progetto Flagship Grafene, ricordiamo 1 miliardo di euro, ci spiega brevemente come funziona, perché è un'esperienza nuova anche per la ricerca europea. Sì, è un'esperienza nuova, è un esperimento che al momento sta funzionando molto bene. Sostanzialmente si tratta di aver cambiato un po' il paradigma con cui veniva finanziata la ricerca a livello europeo, che prima della Flagship veniva finanziata tramite finanziamenti piccoli dedicati, quindi una miriade di tanti finanziamenti per tanti progetti. Con la Flagship Grafene e anche, come diceva lei, Human Brain, si è deciso di avere un approccio diverso, accentrare una quantità di risorse notevoli, 1 miliardo di euro, un tempo lungo, non più i classici 2 anni ma 10, su un unico argomento. Si è scelto, dopo attenta valutazione, grafene, perché il grafene è un materiale europeo, scoperto, isolato in Europa, e è una tecnologia che adesso si sviluppa principalmente fuori dall'Europa. In che posizione è l'Italia da questo punto di vista, per quanto concerne insomma la ricerca e anche lo sviluppo industriale di questo materiale? Allora, questa Flagship è unica anche perché questo investimento, questo 1 miliardo di euro, viene dato a un gruppo di ricercatori molto ampio e sostanzialmente gli viene data la libertà di gestirlo come vuole, con degli obiettivi specifici che sono quelli di creare tecnologia con il grafene. È un gruppo molto ampio di ricercatori, di gruppi di ricerca, sono complessivamente 155, tra cui ce ne sono una decina rilevanti che in qualche modo tirano le fila. L'Italia in questo contesto ha una posizione, direi, di primo piano, sia per quantità di gruppi coinvolti, ma anche per qualità. Lei pensi che delle 10-12 capitoli in cui è suddivisa il progetto Grafene, l'Italia con i suoi ricercatori ne dirige 3-4, in termini di gruppi coinvolti siamo al primo posto insieme alla Germania, e in termini di finanziamento proprio di soldi siamo tra i primissimi posti, quindi è un ruolo a tutti gli effetti di primo piano. Oggi qual è il collo di bottiglia da superare per vedere questo passaggio del grafene dai laboratori ai supermercati, al mercato? Allora, noi del grafene ormai sappiamo tutto, vita, morte e miracoli, sappiamo come funziona, sappiamo anche produrlo molto bene, e i processi di produzione anche a livello industriale del grafene si stanno ottimizzando man mano che il tempo passa, ma il grafene, se lo consideriamo singolarmente come materiale, diventa come un quadro da ammirare, molto bello ma poco funzionale, non è che possiamo pensare di creare una tecnologia totalmente basata sul grafene. Il grande vantaggio del grafene è quello che può essere addizionato a materiali che si conoscono, penso alle plastiche, trasformandoli, addizionando delle proprietà e delle funzionalità che questi materiali non hanno. Faccio un esempio, una plastica può essere resa conduttiva elettricamente addizionando grafene, oppure può essere resa più resistente, certo, addizionando grafene. E il processo di addizione del materiale è proprio quello un po' il collo di bottiglia attuale. Noi adesso dobbiamo cercare di sviluppare dei processi ottimizzati per l'industria e la manifattura. Superato questo scoglio, noi credo vedremo un impatto del grafene che sarà pervasivo. Grazie Vittorio Pellegrini, allora buon lavoro, mi sembra che ne abbiate parecchio da fare. Grazie mille, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.